Sura 28. Al-Qasas. Il racconto. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Ta Sin Mim. Questi sono i versetti del libro chiarissimo. Ti racconteremo, secondo verità, la storia di Mosè e di Faraone per un popolo di credenti. Davvero Faraone era altero sulla terra. Divise in fazioni i suoi abitanti per approfittare della debolezza di una parte. Sgozzava i loro figli maschi e lasciava vivere le femmine. In verità, era uno dei corruttori. Invece noi volevamo colmare di favore quelli che erano stati oppressi, farne delle guide e degli eredi. Volevamo consolidarli sulla terra e loro tramite far vedere a Faraone e Haman e alle loro armate quello che paventavano. Rivelammo alla madre di Mosè: allattalo e quando temerai per lui gettalo nel fiume e non temere e non essere afflitta. Noi te lo restituiremo e faremo di lui uno degli inviati. Lo raccolse la gente di Faraone, sì che potesse diventare loro nemico e causa di tristezza. Davvero, Faraone e Haman e le loro armate erano colpevoli. Disse la moglie di Faraone: questo bambino sarà la gioia dei miei occhi e dei tuoi. Non lo uccidete. Forse ci sarà utile, o lo adotteremo come un figlio. Non avevano alcun sospetto. Il cuore della madre di Mosè fu come fosse vuoto. Poco mancò che non svelasse ogni cosa, se non avessimo rafforzato il suo cuore, sì che rimanesse credente. Disse alla di lui sorella: seguilo. E quella lo osservò di nascosto. Non avevano alcun sospetto. E noi gli interdicemmo ogni nutrice. Allora la sorella disse: posso indicarvi la gente di una casa che potrà occuparsene per conto vostro e che gli sarà benevola? Lo restituimmo a sua madre affinché si consolassero i suoi occhi, non fosse più afflitta e si convincesse che la promessa di Allah è verità, ma la maggior parte di loro non sanno nulla. Quando raggiunse l'età adulta e il pieno del suo sviluppo, gli demmo discernimento e scienza. Così ricompensiamo coloro che operano il bene. Avvenne che, entrando in città in un momento di disattenzione dei suoi abitanti, trovò due uomini che si battevano. Uno era dei suoi e l'altro uno degli avversari. Quello che era dei suoi gli chiese aiuto contro l'altro dell'avversa fazione. Mosè lo colpì con un pugno e lo uccise. Disse Mosè: questa è certamente opera di Satana. È davvero un nemico, uno che svia gli uomini. Disse: Signore, ho fatto torto a me stesso, perdonami. Gli perdonò. Egli è il perdonatore, il misericordioso. Disse: mio Signore, grazie ai favori che mi hai elargito, non sarò mai un alleato degli iniqui. L'indomani era nella città timoroso e guardingo, ed ecco che colui che il giorno prima gli aveva chiesto aiuto, di nuovo lo chiamò a gran voce. Gli disse Mosè: davvero sei un provocatore evidente. Quando poi stava per colpire quello che era avversario di entrambi, questi disse: o Mosè, vuoi uccidermi come l'uomo che uccidesti ieri? Non vuoi essere altro che un tiranno sulla terra, non vuoi essere uno dei conciliatori. Dall'altro capo della città giunse correndo un uomo, disse: o Mosè, i notabili sono riuniti in consiglio per decidere di ucciderti. Fuggi, questo è un buon consiglio. Uscì dalla città timoroso e guardingo. Disse: Signore, salvami da questo popolo ingiusto. Dirigendosi verso Madian, disse: spero che il mio Signore mi guidi sulla retta via. Quando giunse all'acqua di Madian, vi trovò una moltitudine di uomini che abbeverava e scorse due donne che si tenevano in disparte, trattenendo i loro animali. Disse: cosa vi succede? Risposero: non abbevereremo finché i pastori non saranno partiti. Nostro padre è molto vecchio. Abbeverò per loro. Poi si mise all'ombra e disse: Davvero, Signore, ho molto bisogno di qualsiasi bene che farai scendere su di me. Una delle due donne gli si avvicinò timidamente. Disse: Mio padre ti invita a ricompensarti di aver abbeverato per noi. Quando giunse al suo cospetto e gli raccontò la sua storia, disse il vecchio: Non temere, sei sfuggito a gente ingiusta. Una di quelle disse: O padre mio, assumilo, è davvero il migliore che tu possa assoldare, è forte e fidato. Disse: Vorrei sposarti a una di queste mie figlie, a condizione che tu mi serva per 8 anni. Se vorrai restare 10 anni, sarà di tua spontanea volontà. Non ti imporrò nulla di gravoso, e se Allah vuole, troverai che sono un uomo del bene. Rispose: Questo sarà tra me e te. Qualunque dei due termini compirò, nessuna colpa mi sarà rinfacciata. Allah sia garante di quello che diciamo. Quando Mosè si mise in viaggio con la famiglia dopo aver concluso il periodo, scorse un fuoco sul fianco del monte. Disse la sua famiglia: Aspettate, ho visto un fuoco. Forse vi porterò qualche notizia o un tizzone acceso, sì che possiate riscaldarvi. Quando giunse colà, fu chiamato dal lato destro della valle, un lembo di terra benedetta, dal centro dell'albero. O Mosè, sono io, Allah, il Signore dei mondi. E getta il tuo bastone. Quando lo vide contorcersi come fosse un serpente, volse le spalle, ma non tornò sui suoi passi. O Mosè, avvicinati e non aver paura, tu sei uno dei protetti. Infila nel tuo seno la tua mano, la trarrai bianca senza male alcuno. Stringi il braccio al petto contro il terrore. Ecco due prove del tuo Signore per Faraone e per i suoi notabili. Davvero è un popolo perverso. Disse: Signore, ho ucciso uno di loro e temo che mi uccidano. Mio fratello Aronne ha lingua più eloquente della mia. Mandalo insieme con me, come aiutante e per rafforzarmi. Davvero temo che mi trattino da bugiardo. Disse Allah: Rafforzeremo il tuo braccio con tuo fratello e daremo a entrambi autorità. Non potranno toccarvi grazie ai nostri segni. Voi due e quelli che vi seguiranno sarete vittoriosi. Quando poi Mosè giunse loro con i nostri segni evidenti, dissero: Non è altro che artificio di magia. Non abbiamo mai sentito parlare di ciò, neppure dei nostri più lontani antenati. E disse Mosè: Il mio Signore conosce meglio chi è giunto da parte sua con la guida e a chi appartiene l'ultima dimora. In verità gli ingiusti non avranno successo. Disse Faraone: O notabili, per voi non conosco altra divinità che me. O Haman, accendi un fuoco sull'argilla e costruiscimi una torre, chissà che non ascenda fino al Dio di Mosè. Io penso che sia un bugiardo. Fu superbo sulla terra, senza ragione, e le sue armate insieme con lui. E davvero credevano che non sarebbero stati ricondotti a noi. Lo afferrammo, lui e i suoi soldati, e li gettammo nelle onde. Guarda qual è stata la fine degli ingiusti. Ne facemmo guide che invitano al fuoco e nel giorno della resurrezione non saranno soccorsi. Li perseguimmo con una maledizione in questo mondo e nel giorno della resurrezione saranno quelli di cui si avrà orrore. Dopo aver distrutto le generazioni precedenti, in vero abbiamo dato il libro a Mosè, richiamo alla corretta visione per gli uomini, guida e misericordia. Se ne ricorderanno? Tu non eri sul lato occidentale quando demmo l'ordine a Mosè. Tu non eri fra i testimoni. Abbiamo creato generazioni la cui vita si prolungò. Tu non dimoravi tra la gente di Madian per recitare loro i nostri segni. Siamo stati noi a inviare i messaggeri. E non eri sul fianco del monte quando chiamammo. Ma sei giunto come una misericordia da parte del tuo Signore, affinché tu ammonisca un popolo al quale non giunse alcun ammonitore prima di te. Se una disgrazia li colpisce per quel che le loro mani hanno commesso, dicono: Signore, perché mai non ci hai inviato un messaggero? Avremmo seguito i tuoi segni e saremmo stati credenti. Ma quando giunse loro la verità da parte nostra, hanno detto: Perché non gli è stato dato quello che è stato dato a Mosè? Ma già non furono increduli di quello che fu dato a Mosè? Dicono: Due magie che si sostengono a vicenda. E dicono: Sì, non crediamo in nessuna. Di: Portate da parte di Allah un libro che sia migliore guida di entrambi, che lo possa seguire. Portatelo se siete veridici. E se non ti rispondono, sappi allora che seguono solo le loro passioni, niente di più. Chi è più sviato di chi segue la sua passione senza guida alcuna da parte di Allah? In verità, Allah non guida gli ingiusti. E già facemmo giungere loro la parola affinché ricordassero. Coloro ai quali abbiamo dato il libro prima che a lui, credono in esso. Quando glielo si recita dicono: Noi crediamo in esso. Questa è la verità proveniente dal nostro Signore. Già eravamo sottomessi a lui prima che giungesse. Essi sono coloro cui verrà data ricompensa doppia per la loro perseveranza, per aver respinto il male con il bene e per essere stati generosi di quello che noi abbiamo concesso loro. Quando sentono discorsi vani, se ne allontanano dicendo: A noi le opere nostre e a voi le opere vostre. Pace su di voi. Noi non cerchiamo gli ignoranti. Non sei tu che guidi coloro che ami. È Allah che guida chi vuole lui. Egli ben conosce coloro che sono ben guidati. E dicono: Se seguissimo la guida insieme con te, saremmo scacciati dalla nostra terra. Non li abbiamo forse resi stabili in un territorio inviolabile verso il quale sono recati ogni genere di frutti, provvidenza da parte nostra? Ma la maggior parte di essi non sanno. E quante città abbiamo distrutto che erano ingrate pur vivendo nell'abbondanza? Ecco le loro case che non sono più abitate o quasi. Siamo noi l'erede finale. Non si addice al tuo Signore distruggere una comunità prima di aver suscitato nella madre delle città un inviato che reciti loro i nostri segni. Noi distruggiamo le città solo quando i suoi abitanti sono ingiusti. Tutti i beni che vi sono stati concessi non sono che un prestito di questa vita, un ornamento per essa, mentre quello che è presso Allah è migliore e duraturo. Non comprendete dunque? Colui al quale facemmo una bella promessa e che la incontrerà è forse paragonabile a colui cui diamo godimento effimero in questa vita e che nel giorno della resurrezione sarà di quelli che saranno condotti al fuoco? Allah dirà loro il giorno che li chiamerà: Dove sono coloro che pretendevate essere miei consoci? Coloro sui quali si realizzerà il decreto diranno: Ecco, Signore, quelli che abbiamo traviato. Li abbiamo traviati come abbiamo traviato noi stessi. Li rinneghiamo al tuo cospetto. Non siamo noi che essi adoravano. Verrà detto: Invocate i vostri associati. Li chiameranno, ma essi non risponderanno. Quando vedranno il castigo, desidereranno di aver seguito la retta via. Allah dirà loro il giorno che li chiamerà: E cosa avete risposto agli inviati? In quel giorno i loro argomenti saranno oscuri e non si porranno alcuna questione. Chi invece si sarà pentito, avrà creduto e compiuto il bene, forse sarà tra coloro che avranno riuscita. Il tuo Signore crea ciò che vuole e sceglie ciò che vuole. A loro invece non appartiene la scelta. Gloria ad Allah, egli è ben più alto di quello che gli associano. Il tuo Signore conosce ciò che celano i loro cuori e quello che palesano. Egli è Allah, non c'è Dio all'infuori di Lui. Sia lodato in questo mondo e nell'altro. A Lui appartiene il giudizio e a Lui sarete ricondotti. Di. Cosa credete? Se Allah vi desse la notte continua fino al giorno della resurrezione, quale altra divinità all'infuori di Allah potrebbe darvi la luce? Non ascoltate dunque? Di. Cosa credete? Se Allah vi desse il giorno continuo fino al giorno della resurrezione, quale altra divinità all'infuori di Allah potrebbe darvi una notte in cui possiate riposare? Non osservate dunque? È grazie alla sua misericordia che stabilisce per voi la notte e il giorno affinché possiate riposare e procurarvi la sua grazia e affinché gli siate riconoscenti. Allah dirà loro il giorno che li chiamerà: dove sono coloro che pretendevate essere miei associati? Da ogni comunità trarremo un testimone, poi diremo: producete la vostra prova. Sapranno allora che la verità appartiene ad Allah e quello che avevano li abbandonerà. Invero, Karun faceva parte del popolo di Mosè, ma poi si rivoltò contro di loro. Gli avevamo concesso tesori le cui sole chiavi sarebbero state pesanti per un manipolo di uomini robusti. Gli disse la sua gente: non essere tronfio. In verità Allah non ama i superbi. Cerca con i beni che Allah ti ha concesso la dimora ultima. Non trascurare i tuoi doveri in questo mondo. Sii benefico come Allah lo è stato con te e non corrompere la terra. Allah non ama i corruttori. Rispose: ho ottenuto tutto ciò grazie alla scienza che possiedo. Ignorava forse che già in precedenza Allah aveva fatto perire generazioni ben più solide di lui e ben più numerose? I malfattori non saranno interrogati a proposito delle loro colpe. Poi uscì, mostrandosi al suo popolo in tutta la sua pompa. Coloro che bramavano questa vita dissero: disgraziati noi, se avessimo quello che è stato dato a Karun. Gli è stata certo data immensa fortuna. Coloro che invece avevano avuto la scienza dissero: guai a voi, la ricompensa di Allah è la migliore per chi crede e compie il bene. Ma essa viene data solo a quelli che perseverano. Facemmo sì che la terra lo inghiottisse, lui e la sua casa. E non vi fu schiera che lo aiutasse contro Allah, non poté soccorrere se stesso. E coloro che la vigilia si auguravano di essere al posto suo dissero: ah, è ben evidente che Allah concede con larghezza o lesina a chi vuole tra i suoi servi. Se Allah non ci avesse favorito, certamente ci avrebbe fatto sprofondare. Ah, è ben evidente che i miscredenti non prospereranno. Questa dimora ultima la riserviamo a coloro che non vogliono essere superbi sulla terra e non seminano corruzione. L'esito finale appartiene ai timorati di Allah. Chi verrà con il bene avrà meglio ancora. Chi verrà con il male sappia che coloro che avranno commesso il male saranno ricompensati per ciò che avranno fatto. In verità, colui che ti ha imposto il Corano ti ricondurrà al luogo del ritorno. Di, il mio Signore conosce meglio chi viene con la guida e chi è in manifesto errore. Tu non speravi che ti sarebbe stato rivelato il libro. È stato solo per la misericordia del tuo Signore, dunque non essere mai un sostegno per i miscredenti. E non ti distolgano dei segni di Allah dopo che sono stati fatti scendere su di te. Invita al tuo Signore e non essere uno degli associatori. Non invocare nessun altro Dio insieme con Allah. Non c'è Dio all'infuori di Lui. Tutto perirà, eccetto il suo volto. A Lui appartiene il giudizio e a Lui sarete ricondotti.